Puntata di questo bellissimo libro che tu hai scritto, direi sotto ispirazione, che si intitola appunto Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore, 21esima e ultima puntata. Autore Don Andrea Mardegan dell'Opus Dei di Milano, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. Ecco, siamo arrivati, se non sbaglio, siamo arrivati a pagina 168. A te la parola. Sì, grazie Antino. Ecco, siamo arrivati all'ultimo capitolo, capitolo 17, Giuseppe nel mistero pasquale di Gesù. Quindi proseguo così un po' la ricostruzione della presenza di Giuseppe attraverso il cuore di Maria e di Gesù nella vita pubblica, in questo modo particolare nel mistero pasquale. Io vedo tratto in questo capitolo un po' del giovedì, il venerdì, il sabato, il primo giorno dopo della settimana quando Gesù risorge, poi anche tratto un po' dell'ascensione al cielo di Gesù e poi dell'assunzione di Maria. Il tutto molto sinteticamente, anche saltando evidentemente alcuni passi importanti che conosciamo bene e di quei giorni che il Vangelo riferisce, ma ecco, come sempre cerco di mettermi nel cuore di Maria e nel suo vissuto. Maria è sempre lei che parla, ovviamente ormai è solo lei, e qui in questo primo capitolo la faccio dialogare molto con Gesù, soprattutto nel momento previo cioè quando Gesù le anticipa quello che succederà, no? Il vuoto dell'assenza di Giuseppe si fece più vivo nei giorni della passione di Gesù, in quell'estremo viaggio verso Gerusalemme, quel giovedì mattina della settimana di Pasqua. Gesù era con me, era l'alba e stava pregando con la testa foggiata sulla mia spalla, e io pure ero adagiata su di lui, le mani strette. Gesù mi disse: è per domani. Io, percorsa da un nascosto turbamento che cercai di frenare con la forza dell'obbedienza e dell'amore, rispose semplicemente: sia fatto, come avevo risposto all'angelo. Aggiunsi: sarò con te, vorrei solo che ci fosse tuo padre Giuseppe. Mi rispose: mamma, coraggio, non piangere. Papà è qui con noi perché ha vissuto in anticipo tutto e ora ci dona la sua forza. Quando si sentiva solo a proteggere te e me ed è dovuto fuggire, e poi tante altre volte nella vita, e non sempre te lo diceva, temeva il riavvicinarsi di quella prova. Giuseppe, mio padre, ha portato la sua croce prima di me insieme con te. E così ha preparato la mia croce, l'ha portata con me insieme con te. Immagino che appunto Gesù svela un po' a sua madre, che peraltro già un po' lo sapeva, che Giuseppe, dopo appunto la fuga in Egitto e poi anche la perdita di Gesù al Tempio, e rimane sempre un po' col timore che qualcosa del genere possa accadere di nuovo, no? Il fatto che prendano Gesù, che lo portino alla sua passione prima del tempo. Gli chiesi allora: Maria, Gesù mio, abbiamo fatto bene quando eri bambino a fuggire in Egitto, a rimanere là? Forse non siamo stati sufficientemente coraggiosi, forse non abbiamo avuto la fede che sposta le montagne. Dovevamo vivere la prudenza o il coraggio? La prudenza è coraggio, è amore. Ecco, in questo mio desiderio di avvicinare, cioè di farci vedere una Maria e Giuseppe molto vicini a noi, no? Allora, Maria sappiamo bene che è senza peccato, no? Però questo non toglie il fatto che abbia avuto appunto momenti, per esempio come questo, cioè di chiedersi: abbiamo fatto bene, non abbiamo fatto bene. Questa è un'esperienza comune a tutti gli uomini e le donne del mondo, e soprattutto quelli che cercano di far bene, no? Davanti al Dio e davanti agli uomini. Mi rispose: mamma, quando non è ancora giunto il momento occorre fuggire, e io ho vissuto con voi da fuggitivo molte volte, sin dalle fasce. tu mamma e papà vi siete ritrovati un destino da fuggitivi. A volte la fuga è custodia, è protezione, è sapienza contro il nemico che incalza. Quando il nemico incalza è necessario custodire il bene prezioso che si porta nel cuore e nel grembo. Anche i miei discepoli ho insegnato ad evitare i luoghi ostili. Ci sarà un tempo, e non lo stabilite voi, ma il Padre mio, in cui la parola che il Padre vi affiderà sarà così grande e piena da doverla pronunciare e gridare dai tetti. Custoditela fino a quel momento e lasciate che sia forte di sapienza e amore. A chi capiterà la vita del fuggitivo, a chi capiteranno le persecuzioni, dico che è difficile. Guardatevi dalla tentazione di chiudere il cuore, di dubitare di tutti, di vivere nella paura. Custodire l'amore e la vita mia dentro di voi significa guardarvi le spalle, ma abbracciando chi avete di fronte, come ho fatto io, sapienti, furbi come serpenti, ma semplici come colombe. Vi ho preceduti nel cammino di salvezza, ma ho bisogno che lo percorriate con me di nuovo. E rileggendo queste parole che ho messo, immagino che Gesù possa aver detto a Maria, perché poi Maria sarà, secondo per esempio la prima storia della vita di Maria, che chissà dal V secolo, si vede, Maria è un antichissimo documento, che appunto è un punto di riferimento poi quando Gesù sale al cielo per gli apostoli che vanno in giro per il mondo, poi tornano qualche volta a Gerusalemme e la trovano e li raccontano e si sentono da lei guidati e confortati, no? Per cui io mi immagino questa parola di Maria, quindi Gesù anche a lei dà, come dire, in qualche modo le ultime volontà, no? E metterete in piedi la mia chiesa, ricordatevi che gli uomini sono santi, non le istituzioni, non le opere, e che anche i santi sbagliano, ma al Padre mio interessano più i tentativi degli esiti. Il Padre conosce tutto e vi chiede misericordia per tutti i tentativi sbagliati, no? Abbiate misericordia, fratelli miei, amate i fratelli che sbagliano, altrimenti rendete vana la mia croce. Ricorda, e qui a un certo punto è come se Gesù, ecco, parlasse a tutti, no? E poi torna a parlare con Maria e dice: ricorda che è ai miei figli che la mia chiesa è il mio corpo, è corpo, è sangue, nascerà dal mio corpo domani sulla croce. Se io non avessi fatto esperienza del corpo che tu mi hai regalato, non potrei desiderare una chiesa che sarà il mio corpo presente nel mondo. Io che vivo la gioia di guardarti negli occhi e di imparare da te l'amore umano, a questi occhi voglio condurre tutti i miei fratelli. È un po' come Maria, come immagine della Chiesa, no? Come voglio per loro la bellezza della vita sulla terra che ho avuto io, l'amore di mia madre e l'amore di mio padre. Come potrei volere cose diverse per loro? L'amore dei genitori è il cuore della nostra vita. Con quell'amore impariamo tutti a camminare. Senza quell'amore si soffre tanto. Ma anche chi non ce l'ha raggiunge il Padre attraverso altre vie, attraverso la grazia del mio amore. Non siete mai soli. Qui si conclude queste parole di Gesù a Maria, un po' con l'intensità e il tono delle ultime parole, no? che intimamente le può aver detto queste o altre simili. E quindi questo è il ricordo del Giovedì Santo in cui Maria tiene presente Giuseppe, Gesù anche, ecco, attraverso questo dialogo tra madre e figlio. E poi passo, quindi salto l'aspetto dell'Eucaristia, che è evidentemente molto importante, ma passo a anche il processo, eccetera, e passo a Maria sotto la croce, dove in realtà il Vangelo di Giovanni la mette, no? Stava sotto la croce, ecco, Maria e con altre donne e il discepolo amato, vi ricordatelo. Allora Maria ricorda sotto la croce di Gesù mi torna in mente quella colomba di legno che Giuseppe mi regalò da bambina, che è un episodio che ho raccontato nel primo capitolo, no? Di fantasia mia. Quando guardavo quella carne bellissima sotto del mio grembo, piegata e sanguinante, che sembrava rendere vivo quel legno grezzo sotto i suoi respiri e le sue sofferenze inimmaginabili, sentivo l'assenza di Giuseppe al mio fianco e allo stesso tempo, grazie anche a quel ricordo, sentivo la sua presenza invisibile che mi dava forza. Lessi l'iscrizione di Pilato: Gesù Nazareno, re dei Giudei. E mi ricordai di quel dialogo con Giuseppe di ritorno dall'Egitto, quando insieme decidemmo di stabilirci a Nazareth. Lo raccontai nel capitolo dopo, quando tornano dall'Egitto, che cercano di capire dove andare, no? E decidono insieme di andare a Nazareth. Anche in quel modo Giuseppe stava in me, stava con me sotto la croce. Il legno su cui soffriva e moriva Gesù mi ricordava il lavoro suo e di Giuseppe. Quante volte li avevo visti maneggiare travi, modellarle, legno per la vita, per le mense delle case, per le culle dei bimbi. Anche da quel legno, bagnato dal suo sangue, dal mio sangue, stava nascendo la vita. Quando Gesù disse a me: donna, ecco tuo figlio, e al giovane Giovanni che mi stava accanto: ecco tua madre, ricordai la morte di Giuseppe. Io questa è l'immaginazione mia, ricordate, in cui Giuseppe anche lì sul letto di morte affida a Gesù Maria e Gesù a Maria, sono, ecco, dicendo di queste frasi, no? E una spada di nuovo mi trapassò l'anima, e compresi che quei 3 anni di vita pubblica di Gesù mi avevano aiutato a perdere progressivamente tutto per essere pronta a un altro modo di vivere la maternità, proteggendo, accudendo, consolando e amando Gesù in Giovanni e lasciandomi accudire, amare e proteggere da lui, e così in tutti i miei figli. Nel momento, come tutta la Chiesa sempre insegna, no? Che nel discepolato, che noi, che quasi tutti insomma, identificano con Giovanni, l'evangelista, che il apostolo evangelista, Maria, cioè, in qualche modo tutti noi siamo affidati a Maria, da Gesù. Quindi io leggo questo episodio, come dire, dentro al cuore di Maria, la quale si accorge che Gesù le dona la possibilità di una maternità molto più grande per tutti noi. Cioè, ha perso tutto per guarire tutto, no? In qualche modo. Vidi mio figlio che moriva per amore di tutti noi, che donava tutta la sua vita, tutto il suo sangue, dava tutto se stesso, amava fino alla fine. Quando quel soldato aprì con la lancia il cuore di Gesù, che era già morto, mi parve che squarciasse il mio petto. Non c'era limite alla crudeltà degli uomini. Vidi l'ultimo sangue e l'ultima acqua che usciva dal suo costato, il mio sangue e il mio latte con cui l'avevo nutrito. Con quel cuore aperto ed esposto, Gesù morto mi stava dicendo: mamma, qui c'è la sintesi della tua vita e della vita di papà. Sì, Dio ci aveva chiesto a Giuseppe e a me di amare sempre con il cuore aperto ed esposto, senza sicurezze, sempre pronto alla donazione e al dolore. Nel cuore aperto ed esposto lo Spirito Santo trova una dimora adatta, lo abita e da lì si diffonde. Ecco, il cuore, diciamo, in qualche modo è quel cuore di Gesù squarciato dalla lancia, può avere questo significato, no? Il cuore, evidentemente Gesù lì sulla croce appunto dona tutto se stesso fino alla fine, e addirittura anche proprio tutto il suo sangue, e inizia anche tutta l'acqua, no? Che poi sono simbolo dei segreti della Chiesa, e però Maria coglie in questo anche il valore grande della vita sua di Giuseppe. Come cuore esposto si intende un cuore che, proprio perché ama, si espone anche alla sofferenza, vedete, quando a volte questo meccanismo, a volte nascosto, ma pericoloso che abbiamo, no? Per paura di soffrire ci chiudiamo il cuore e quindi non amiamo, no? Invece se amiamo, certo che è pericoloso, perché poi alla fine ci si espone alla sofferenza, ci si espone anche al tradimento, ci si espone alla critica, ci si espone, insomma. Però questa esposizione, no, è la pietra di paragone dell'amore, no? Quindi la capacità della disponibilità a soffrire per amore, che ha vissuto lei, ha vissuto Giuseppe, e ovviamente in termini assoluti ha vissuto Gesù, e quindi lo Spirito Santo, ecco, dice: Maria trova una dimora adatta in questo cuore esposto e lo abita, e da lì si diffonde. Nel nome di Giuseppe di Arimatea, devo dire che questa, ecco, rileggendo la passione di Gesù nel terminare questo libro, per vedere appunto come era presente Giuseppe, no? Secondo, cercando di capire un po' attraverso il cuore di Maria come poteva essere Giuseppe presente, e mi ha colpito, non ci avevo mai pensato, alla presenza di Giuseppe di Arimatea, no? Che proprio attraverso il suo nome, che si chiama proprio come Giuseppe, lo sposo di Maria e il padre di Gesù, e in qualche modo si faceva presente anche Giuseppe. Nel nome di Giuseppe di Arimatea e nel suo essere buono e giusto, come Giuseppe suo sposo, nel suo comparire come un angelo a consolare il mio dolore sotto la croce di mio figlio, vidi un altro segno della vicinanza di Giuseppe in quei momenti unici. Anche nei suoi gesti vidi Giuseppe, schiodò il corpo di Gesù con amore di padre e sapienza di artigiano, lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo come noi lo avvolgemmo in fascia a Betlemme, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia dove nessuno era stato ancora sepolto, come noi lo deponemmo nella mangiatoia che non era mai stata la culla di un bambino. Insieme con le altre donne osservai Giuseppe come deponeva il corpo di Gesù. Poi venne il riposo del sabato. Non ci fu mai sabato come quel sabato. Sul sabato io dico solo questa breve frase, non ci fu mai sabato come quel sabato, perché evidentemente il popolo Israele si celebrava il sabato come giorno del riposo di Dio dopo la creazione, e quello è un riposo di Dio dove addirittura il Dio fatto uomo riposa nel sepolcro, ma è l'unico sabato, no, di tutta la storia in cui accade questo, in cui la madre di Gesù appunto veglia il corpo del figlio nel sepolcro tutto nuovo in attesa della nuova creazione. Il mattino di quel primo giorno dopo il sabato, siamo già passati a quella che noi chiamiamo la domenica, il giorno del Signore, il giorno della resurrezione, il mattino di quel primo giorno dopo il sabato, mentre andavo verso il sepolcro che era ancora notte, la stella del mattino mi ricordò Giuseppe e il suo amore. Vi ricordate forse che in un episodio inventato da me, in questo l'aspetto più romanzato del libro, erano in Egitto, forse Giuseppe appunto guardando la sera del mattino fa una dichiarazione d'amore molto bella a Maria, no? Che poi noi, ecco, Maria la identifichiamo, no, con la stella del mattino e la nostra devozione. Gesù risorto e vivo mi abbracciò quando il sole abbracciava la terra e la riscaldava con tutti i colori dell'alba. Lo abbracciai con tutti i colori del mio amore, con tutti i giorni della mia vita. Con la gioia della sua nascita, in braccio a me e a Giuseppe, con la paura della fuga, in braccio a me e a Giuseppe, con l'angoscia placata nel ritrovamento, tuo padre e io ti cercavamo. Giuseppe, come sarebbe bello che anche tu fossi qua. Adesso veramente tutto è compiuto, quello che ci disse l'angelo. Il nostro Gesù ha salvato il suo popolo dai suoi peccati, e il suo regno non avrà fine. È rinato in un modo nuovo e non morirà più, non lo perderemo più, non gli faranno più del male. E Pietro e Giovanni, ecco, quindi è il ricordo di Maria per Giuseppe nel momento della risurrezione, ecco, dell'abbraccio con Gesù risorto. Pietro e Giovanni mi raccontarono, e qui passo già, vedete che sono un po' sintetico, ma comunque va bene anche così, e passo al momento dell'ascensione di Gesù al cielo dopo 40 giorni. Pietro e Giovanni mi raccontarono come scompare ai loro occhi 40 giorni dopo salendo al cielo. Mi consolò pensare al suo incontro con Giuseppe e mi dedicai a curare la chiesa nascente, quei figli. Stavo nel cenacolo in preghiera con loro. Ecco, questo sappiamo bene che proprio negli Atti degli Apostoli è raccontato, no? Quindi proprio da San Luca, che è presente, no? La madre di Gesù era con loro in preghiera, no? In attesa della forza dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso. Quindi in quel cenacolo che noi visitiamo quella sala del cielo che visitiamo a Gerusalemme, ricordiamo al contempo l'Eucaristia, istituita da Gesù, ecco, in quel luogo, e questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e allo stesso tempo poi la preghiera della Chiesa per 10 giorni, insieme con Maria, e poi la venuta dello Spirito Santo con forza, no? E in attesa della forza dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso, erano circa 120, dice proprio San Luca che erano 120, e ne parlavo in cuor mio con Giuseppe: guarda la tua famiglia come è cresciuta, sei il nuovo Abramo che dall'unico figlio Isacco moltiplicò la sua famiglia come le stelle del cielo e la sabbia del mare. E ecco, no, anche effettivamente Abramo e Isacco è la promessa di questa discendenza numerosissima, e Giuseppe che rinunciò ad avere figli suoi ed ebbe questo figlio straordinario che è il figlio di Dio come figlio suo, e attraverso di lui che grande discendenza, una discendenza che non è più legata alla carne, diciamo così, alla discendenza umana, no, ma invece è una discendenza di tipo spirituale, cioè i figli di Dio nella Chiesa che arrivano attraverso il battesimo, quindi sono di ogni nazione, di ogni lingua. Qualche anno dopo Gesù mi chiamò a occuparmi dei miei figli in un modo nuovo, quindi passo subito all'assunzione di Maria, facciamo un salto, assunta in cielo con il mio corpo di donna e di madre, e qui c'è l'ultimo degli acquerelli di Ananea Trevisan che illustra proprio queste Maria che arriva, no, nella presenza di Gesù e vede anche Giuseppe in cielo, no? E bello, bellissimo. Li ritrovai commosso, Giuseppe commosso e vivo, con il suo corpo forte da lavoratore lì insieme a Gesù e a tutti i santi, no? Alcuni teologi pensano che Giuseppe sia anche col suo corpo, no? E la mia carezza compenetrata nella sua carezza, in prendersi per mano, che è oltre da mai prendersi per mano, e Giuseppe mi disse: ora siamo nell'abbraccio eterno e non c'è cosa che tu senta che non senta anch'io, seguo nel silenzio ogni tua lacrima e dono ai miei figli la forza che vedo in te, mi innamoro delle tue lacrime e della tua gioia per i tuoi figli. In vita capivo poco, qui mi innamoro del tuo amore per tutti e amo con il tuo amore tramite l'amore che ci unisce a Gesù. Bello. E Maria conclude così, questa è la frase con cui si conclude il libro: viviamo in cielo quello che avevamo assaporato sulla terra, cioè l'amore, no? Moltiplicato per 100, per 1000, per tutta l'eternità. E ecco, così si conclude il libro, è un amore di Giuseppe e di Maria che allo stesso tempo, come vedete, include tutti noi, i loro figli, quindi ci aiutano con la loro intercessione, e penso che più li amiamo e più li teniamo presenti nelle nostre preghiere, più loro sono presenti nella nostra vita, Giuseppe e Maria, in modo particolare nella vita d'amore dei coniugi, no, che possono avere il loro, non solo un modello, ma degli intercessori, proprio perché il lavoro che dei coniugi, che a volte è bellissimo, altre volte è faticoso, altre volte va costruito, altre volte c'è il pericolo che si raffreddi, insomma, ecco, ha proprio bisogno di questa protezione di Giuseppe e di Maria, perché fiorisca, invece perché cresca lungo la vita sempre più grande, no? Fino a poi certo diventare perfetto in cielo. Beh, questa scusa è Don Andrea, sì. Questo l'ultimo acquerello, sì, ci lascia un dubbio, che cioè anche Giuseppe sia lassù col suo corpo, ecco. Sì. Comunque questa questione lasciamola stare, perché non... Lasciamola ai teologi, sì. Certo. No, qualcuno dice, quei santi che risorsero, no, sai che dice Matteo. Sì, sì, però io volevo, siccome abbiamo ancora 2 minuti... Io volevo che, siccome tu hai fatto la dedica, invece all'inizio l'hai fatta proprio alla fine, parlasse un attimo di Bruno e Claudia, dai. Benissimo. Infatti nei ringraziamenti sono stato molto sintetico, e perché evidentemente ringrazio, sono tante persone della Chiesa che mi hanno aiutato e tante cose le ho imparate, anzi tutte, no? Nella Chiesa, quindi accetto anche San Cosimia, accetto, insomma, Certo. Il Papa, ok, Papa Benedetto, Papa Francesco, anche li metto in bibliografia. Comunque, alla fine, dico così, no, ringrazio anche quelli che mi hanno aiutato, i lettori. A cui certo, certo. Hanno dato. Però... Alla fine, è l'ultimo tocco, è tra loro, tra i lettori, no? Cito solo mio padre Bruno, noto scrittore di lettere ai giornali, sempre attivo sui social, anche adesso che ha la tenera età di 92 anni, è molto attivo su Facebook, cioè cerca di fare attività proprio di, diciamo, di dare buone idee intorno, e che legge tutti i miei manoscritti e mi aiuta a migliorarli anche dal punto di vista linguistico. Questo è proprio vero, eh? Mi dà dei suggerimenti di lingua italiana molto belli. Mia madre Claudia, assidua lettrice di libri, che sempre mi consiglia, preferisce leggerli quando sono pubblicati, così ha deciso anche per questo, ma ascoltando i commenti di mio padre, forse un po' lo conosce già, lo dedico a loro. Benissimo, bravo, bravo, bravo, bravo. Senti, allora li salutiamo, 92 anni e... E 90. E 90. E... Li salutiamo cordialmente... Io in salute e vivaci. Ti ringraziamo che sostengono il loro figlio così bene, sì. anche nel suo operare, e chiediamo a loro una preghiera speciale. Senz'altro. Allora adesso tu, mentre dai la benedizione a tutti gli ascoltatori a conclusione di questo viaggio di 21 puntate, pensi soprattutto a papà e alla mamma. Senz'altro. Grazie Santino, allora vi do la benedizione come sempre, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi, su tutte le famiglie, su tutte le vostre intenzioni, sul vostro lavoro e in modo particolare sul mio papà e sulla mia mamma e su tutti i genitori e gli sposi. E rimanga sempre. Amen. E allora la prossima volta ci ritroviamo ancora con la Madonna, come si chiama il titolo? Maria, il mio cuore svelato. Molto bene, a presto.